24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Raffaele Cantone, 51 anni, napoletano, sposato con due figli, una passione per il calcio, tifoso del Napoli, magistrato dal 99 nella direzione distrettuale antimafia, indaga sui casalesi, ottiene l'ergastolo tra gli altri per Francesco Schiavone e Francesco Bidognetti, li insegue in Scozia, in Germania, in Ungheria e in Romania. Nel 2013 Enrico Letta lo nomina nella task force per l'elaborazione della proposta sulla lotta alla criminalità organizzata. A Giugliano, dove è cresciuto, e presidente onorario di Libera, l'organizzazione fondata da Don Ciotti. Nel marzo del 2014 Renzi lo nomina presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e comincia subito dallo scandalo Expo, bloccando l'assegnazione dei lavori per l'Albero della Vita, il simbolo dell'Expo. Ecco, dottor Cantone, alla fine l'Albero della Vita si farà o no? Guardi, noi abbiamo dato proprio l'altro ieri parere favorevole al bando. Ovviamente non spetta a noi stabilire se l'Albero della Vita si faccia. Certo, ma che cosa non andava? Ma non andavano parecchie cose. C'erano dei criteri soprattutto poco trasparenti, soprattutto nel modo in cui era stato acquistato il concept. Le procedure adottate non andavano bene? Assolutamente no. C'erano delle questioni di scarsa trasparenza in una serie di passaggi. Superate? Assolutamente sì. Gran parte sono state superate. Senta, lei però un mese fa ha detto: non ho gli strumenti per controllare quello che si fa nei padiglioni stranieri. Allora verranno di lì problemi? Sì, purtroppo sì, in parte, nel senso che quello che viene fatto nei padiglioni stranieri si applica alla legislazione degli stati stranieri, quindi non si possono fare controlli antimafia e certamente noi non possiamo controllare nulla. Questo, e quindi però, le imprese escluse dall'Expo possono ripresentarsi attraverso gli stranieri? Può capitare, però devo dire che la prefettura, soprattutto per quanto riguarda i controlli antimafia, li sta facendo ugualmente e in qualche caso ha ottenuto comunque l'esclusione volontaria. Ma è vero che nessun paese ha firmato il protocollo di legalità, appunto quello istituito dalla prefettura della società Expo? Questo non so se nessun paese, certamente. Vabbè, insomma, gran parte dei gran paesi. Parte. Beh, quindi lì c'è un pericolo. C'è sicuramente un gran pericolo, però questo forse ci sarebbe dovuto pensare quando è stata firmata la convenzione. Del resto anche sulla Torino-Lione noi abbiamo gli stessi problemi, perché lì si applica la legislazione francese che per esempio non riconosce le interdittive antimafia, però questo dovremmo pensarci prima. A giugno, quando lei è arrivato a vigilare sull'Expo, ha detto che quasi tutte le gare erano state fatte in deroga alla legge sulla trasparenza. Oggi il problema è sempre quello. Io non ho detto questo, ho detto che erano stati utilizzati in moltissimi casi le deroghe previste e garantite dalla legge. Sicuramente abbiamo fatto grandi passi in avanti, per esempio Expo si è dotato di un programma che si chiama Open Expo, tutto in rete, e questo è un grandissimo risultato. E cos'è che resta fuori? Nulla. Quindi è risolto il problema. Sul piano della trasparenza, sì, ovviamente quello è un pezzo, ci riguarda, noi facciamo i controlli su tutte le gare. E qual è l'altro pezzo? Ovviamente sulle procedure ci sono a volte delle cose su cui non siamo d'accordo, ma la nostra è una funzione di controllo, lo rileviamo e quasi sempre Expo si adegua alle nostre indicazioni. Ma possono uscire altri guai? Lei li sente nell'aria? Ma guardi, noi stiamo lavorando in modo molto molto rigoroso. Io mi augurerei di no, e questo stiamo facendo ma diciamo, il nostro controllo ovviamente resta un controllo sugli atti, è talmente approfondito che tendenzialmente io direi che dal momento del nostro controllo è molto difficile che questo accada, ma non impossibile. Non impossibile. Senta, ma è vero che i controlli anticorruzione invece dall'altra parte potrebbero rallentare i cantieri? Ma guardi, per quanto riguarda l'Expo lo escludo categoricamente. Noi ci siamo dati tempi strettissimi, li abbiamo rispettati. L'Albero della Vita abbiamo fatto il controllo di un bando complessissimo in 3 giorni e abbiamo fatto i rilievi punto per punto, virgola per virgola. I 3 marescialli della Guardia di Finanza, che sono coadiuvati da un colonnello, lavorano anche il sabato e la domenica. Su questo gli atti li abbiamo avuti venerdì e abbiamo depositato martedì la relazione. Vabbè, quindi non fermate niente. Ma i fenomeni di corruzione che avete scoperto per l'Expo sono la punta di un iceberg? Ha la sensazione che siano la punta di un iceberg? No. Purtroppo sì, secondo me. Sono la punta di un iceberg che ovviamente non riguarda solo l'Expo. No, riguarda certo, il sistema degli appalti. Riguarda il sistema degli appalti che purtroppo prevede sicuramente una serie di meccanismi di presenze di lobby, di soggetti che tendono... Ecco, infatti lei ha detto una cosa, che il criterio del massimo ribasso, poi parleremo delle lobby, favorisce le imprese mafiose. Sì, perché? Però io ho anche detto che non esiste un criterio giusto in assoluto. Il criterio del massimo ribasso favorisce le imprese mafiose perché loro possono intervenire su una serie di cose che gli imprenditori ordinari non possono fare, possono avere credito senza andare in banca, possono pagare meno gli operai, non hanno problemi di insoluti, possono immettere soprattutto denaro illecito e persino pensare di lavorare in perdita. Però diciamo anche con chiarezza che anche l'altro criterio, quello delle offerte economicamente vantaggiose, non necessariamente garantisce rispetto alla corruzione. Quindi è molto complicato trovare il criterio giusto. Secondo me non esiste un criterio giusto in assoluto. Il problema che cosa è che, esiste allora? Secondo me bisogna prevedere una serie di regole che siano il meno discrezionali possibili. Per esempio il massimo ribasso, se funzionasse davvero l'eliminazione delle offerte anomale, in alcuni casi andrebbe bene. Le offerte... Beh, massimo e ribasso, ma poi niente varianti in corso d'opera. Ma anche l'offerta economicamente vantaggiosa, se noi individuiamo criteri per attribuzione dei punteggi poco discrezionali, è perfetto. Certo. Dottor Cantone, senta, ma con i poteri che lei ha, le imprese temono, così dicono, una raffica di commissariamenti. È possibile, è vero, un rischio che corrono o no? Guardi, ad oggi noi abbiamo fatto 3 commissariamenti, ovviamente ne faremo molti altri. E uno riguarda il MOSE, che è in atto, non è ancora stato fatto. 2 riguardano 2 imprese di Expo, altri ne faremo. Dove? Nessuno. Dove ne faremo? Ne faremo in non varie me lo parti, dice. No? Però nessuno ad oggi ha fatto ricorso. Ah. Senta, ma è vero che un eccesso di controlli, di burocrazia, non solo non blocca, ma facilita la corruzione? Il rischio c'è, soprattutto se la burocrazia è deresponsabilizzata. Potere senza responsabilità è la morte di tutto. Guardi, io sono convinto che la vera grande riforma della pubblica amministrazione dovrebbe passare per 2 parole. Ovviamente quali? Vanno declinate semplicità e semplicità da un lato e scarsa burocrazia dall'altro. Ecco, ma se dovesse dare un consiglio al ministro Madia, questo gli direbbe? Sì, io gli direi che bisogna lavorare moltissimo per la semplicità e ovviamente ampliando sempre più i meccanismi di trasparenza. E gliel'ha detto? No? Tante volte. Tante volte l'ascolta? Io credo di sì, perché il ministro Madia è molto sensibile e molto attento su questi temi. Senta, dottor Cantone, per l'Expo più niente scandali? Io scaramanticamente tocco ferro. Cioè, ma possiamo dire che l'Expo è corruzione free? Noi stiamo facendo di tutto perché questo accada. Io sono, moderatamente ottimista. Ma scaramanticamente, ovviamente, tocco ferro. Beh, quindi molto ottimista, diciamo. E sarà pronto in tempo l'Expo? Questo devo dire non dipende. Vabbè, ma lei lo sa, lo vede. Sì, qualche problemino c'è su alcune parti. Che quali sono le più difficili? Per esempio il Padiglione Italia, che purtroppo è anche un po' il simbolo della nostra nazione. Lì bisogna... C'ha problemi. Perché di che genere? Dal vostro punto di vista o in generale? No, c'ha problemi proprio dal punto... Ci sono una serie di problemi che riguardano l'avanzamento e lo stato dei lavori, su cui credo che la società Expo sta mettendo in campo anche azioni straordinarie e mi auguro che quello sarebbe un grande danno d'immagine. Certo, se facciamo l'Expo senza il Padiglione d'Italia... No, questo non accadrà. Senta, dottor Cantone, ma la situazione oggi è meglio o peggio di Tangentopoli dal punto di vista della corruzione? Io credo sia diversa, cioè è cambiata moltissimo la corruzione, come dice Davigo... Le indagini di Mani Pulite hanno fatto una sorta di selezione della specie, hanno lasciato i migliori in campo, anche quelli più difficili da scoprire, e soprattutto c'è un'altra cosa. Oggi la corruzione è molto meno legata alla politica. Ma alle persone? Alle persone e ai comitati d'affari, che sono molto più difficili da scoprire, perché sono già tutti insieme, pubblici e amministratori. Sono trasversali. Molto di più. Senta, ma c'è un episodio che le ha segnato di più di altri in tema di legame appunto tra corruzione e criminalità organizzata, che ha proprio detto no, questa proprio non me l'aspettavo? Ma guardi, un episodio specifico no. Ci sono, la cosa che posso dirle è che il rapporto fra criminalità organizzata e pubblica amministrazione quasi mai si è verificato con la violenza. I pubblici amministratori non venivano mai intimiditi, quasi sempre comprati, sono cooptati. Senta, in no, TV, comprati o comprati, beh, insomma, una forma di cooptazione molto efficace. Senta, ma in TV lei ha detto che la corruzione, da un punto di di vista culturale non è considerata un fenomeno negativo, quindi è una battaglia persa. Assolutamente no, perché fino a poco tempo fa, non si dimentichi, anche la mafia non era del tutto una cosa negativa, considerata una cosa negativa. Lì però siamo riusciti a fare un'inversione di tendenza. Sì, e perciò, nella percezione, sì. E lì bisogna fare lo stesso lavoro. Certo. Per esempio abbiamo chiesto a Confindustria di fare lo stesso lavoro che ha fatto per la mafia, e lo vuole fare, questo è un grande segnale. Cioè di buttare fuori tutti quelli che hanno questo problema. Però io direi di fare anche qualcosa in più, provare per esempio a premiare chi si comporta bene, perché smettiamola di dire facciamo solo i controlli. Io per esempio credo che noi abbiamo un istituto nel nostro ordinamento che va valorizzato, il rating di legalità. Se noi il rating di legalità per esempio lo utilizziamo non solo per consentire di avere come i 5 stelle per i ristoranti, insomma, o per gli alberghi, o il bollino blu, certo. Io credo che quello possa essere il futuro, certo. Per le imprese, bollino blu per le imprese vanno fatti bene. Senta, falso in bilancio e autoriciclaggio sarebbero strumenti indispensabili per fare questa... Sono strumenti molto utili, però vanno scritti bene. Abbiamo bisogno di reati che siano scritti bene. Definiti bene. Definiti bene, che servono soprattutto per l'obiettivo. Cioè un falso in bilancio che serve semplicemente a verificare le irregolarità formali non serve a nulla. Serve niente, e un autoriciclaggio che si occupi, diciamo, non di intervenire sulle rimissioni di canali di denaro illecito nell'economia, serve davvero a poco. Senta, ne parlava prima, ma le risulta che le lobby sono organizzate, sono al lavoro per impedire che siano definite bene queste leggi? Ma purtroppo penso di sì. Io vorrei dire una cosa che spesso molti dimenticano. Quando nel 2001-2000 fu modificata la norma sul falso in bilancio, non fu solo un'operazione politica, fu un'operazione soprattutto lobbistica. Ci furono una serie di appelli che furono firmati da imprenditori importanti che chiedevano di modificare il falso in bilancio. Ovviamente alcune delle cose che dicevano erano anche ragionevoli, però c'era un pezzo pesante di lobby imprenditoriale, burocratica, anche che si è espressa. Senta, dottor Cantone, che oggi probabilmente non ha interesse a farlo riprendere. Senta, dottor Cantone, il ministro Orlando ha considerato prioritario l'intervento sul processo civile, non su quello penale, ha ragione? Tendenzialmente sì, io sono convinto che il processo civile rappresenta uno snodo fondamentale, e le dirò di più. Un processo civile che funziona aiuta la lotta alla corruzione, perché se io so di poter ottenere il mio risultato attraverso la giustizia non utilizzo strade traverse. Perché infatti 3-4 milioni di cause civili in evase bloccano anche gli investimenti, sia stranieri che italiani. Insomma, uno ha paura di bloccano quella. Gli investimenti, ma soprattutto bloccano i cittadini. Perché io vorrei che una persona che ha un credito sa se ha ragione o torto, e soprattutto dopo quanto tempo lo può avere. Esattamente, dottor Cantone, ma lei sa che i magistrati italiani sono quelli che guadagnano di più in Europa, rendono in funzione di questo guadagno? Guardi, non glielo so dire, non so quanto guadagnano i colleghi europei. No, lo so perché lo verifichiamo. Lo so, non lo metto in dubbio. Io, diciamo, credo di aver sempre lavorato in modo adeguato a quanto guadagno. Parla per sé. Senta, ma è che fanno più ferie degli altri, è normale o no? Io credo che non fosse normale, diciamo, aveva una sua ragione. Io non credo che quello fosse normale. Vabbè, però è meglio che siamo un po' tutti uguali su quello. Io non mi sono mai scandalizzato, del resto le assicuro che non sono mai riuscito a farle. Vabbè, ma poi lo riproduce a sé, ma insomma, no, questo è un problema generale. Ma ci sono tantissimi colleghi che però non li hanno fatte, le assicuro. Ma c'è stato un problema di eccesso di protagonismo dei giudici e PM, soprattutto nei corsi di questi anni? Ma qualche caso c'è stato, però devo dire che tutto sommato, se andiamo a verificare, si tratta anche di casi limitati. Ecco, ma per esempio un cittadino normale, comune, che cosa può pensare di fronte a uno scontro pubblico come quello a Milano che contrappone il procuratore capo Brutti Liberati dal suo vice Robledo? Ma guarda, fa effetto. Fa effetto, però le voglio anche dire una cosa. Tutto sommato questo è anche un po' un modo, diciamo, democratico di lavare i panni sporchi in pubblico. Io penso che tutto sommato questo è anche un po' un meccanismo di trasparenza. Sì, ma poi però bisogna tirare delle conclusioni. E questo spetta al CSM. Va bene. Ma lei è favorevole alla definizione della responsabilità civile dei giudici? Assolutamente sì. Ma in che termini? Ma guardi, il problema è quello di stabilire con chiarezza le modalità. Cioè... Vabbè, guardi, le faccio un esempio, scusi, la interrompo, poi mi sgridano gli ascoltatori che interrompo, ma dall'88 al 2011 sono stati 4 i magistrati riconosciuti civilmente responsabili. È un numero ridicolo. Ma sicuramente quella legge non funzionava bene. Il tema però resta, è quello di evitare che la responsabilità civile venga utilizzata come una clava. Sì, ma se quattro dall'88 però dobbiamo trovare un criterio intelligente. Perché, c'era stato un referendum. Sì, ma al quale, lo sa, io votai no. E non ero ancora magistrato. Per una ragione, perché io sono convinto che una responsabilità civile scritta male rischia di essere un danno ai cittadini, perché rende intimidisce il magistrato. Sì, ma scritta male... Scritta neanche, ancora peggio. D'accordo. Va bene. Su questo siamo d'accordo. In Europa il 32% degli europei è convinto che il giudice non sia imparziale. In Italia il 52%. Ma è un dato. Una reputazione complicata, insomma. È una reputazione complicata, sicuramente non eccezionale. Però ovviamente io sono convinto che se guardiamo la reputazione della magistratura rispetto alla reputazione generale delle altre cariche pubbliche, può andare anche meglio, sì, non c'è dubbio. Senta, con Renzi però sembra tornato il primato della politica. È finito il tempo della supplenza ai magistrati. Questo forse è un bene, no? Ma io credo che sicuramente c'è stata. La supplenza però è anche dovuta al fatto che molta gente non trova altri sfoghi. No, certo, poi i vuoti si riempono, quindi non è che imputo. Dico, nell'ordinamento complessivo forse è meglio che ci sia il primato della politica. Assolutamente, no? Sì. Democrazia. Ovviamente il primato della politica nel rispetto delle prerogative degli altri ordini. Assolutamente. Siamo assolutamente d'accordo. Ma è vero che lei è contrario allo sblocca Italia, non le piace? Eh? No, non è vero affatto. No. Io avevo semplicemente detto che il testo originario dello sblocca Italia, che pure giustificavo per altre ragioni, non era scritto proprio bene, c'erano troppe deroghe. Però le assicuro che gran parte delle richieste sono state accolte in sede di conversione. Il testo è molto è cambiato, è vero. Ma un magistrato super partes come lei, perché è andato alla Leopolda? Io sono andato anche alla festa di Atreio, sono andato alla Summer School di Forza Italia, forse ha fatto meno notizia. Andato, diciamo, cioè, a parlare va in giro per feste, si rilassa. No. Io vado a parlare di corruzione. Certo, lo so, no, ma ci mancherebbe. Certo. Io vado a parlare dovunque di corruzione, sono stato alla CGL, sono stato a Lance. Sì, va a parlare del suo mestiere. Senta, ma complessivamente i magistrati che sono passati in politica, bene o male? È favorevole o contrario? Io in generale. Io credo che il vero problema sia il rientro dei magistrati. Beh, quello mi sembra. Devo dire che in genere non hanno fatto grande prova di sé, non hanno lasciato tracce eccezionali, tranne casi veramente. Lei ci ha mai pensato? No, neanche quando Saviano l'ha candidata a sindaco di Napoli, no, lo voleva candidare. Perché poi non mi sono candidato. Senta, restiamo a Napoli, dice che la corruzione è peggio della camorra, perché? Ma perché la camorra paradossalmente spesso è molto più riconoscibile. Il nemico che tu c'hai di fronte lo vedi molto più facilmente. Il nemico che si nasconde con i tuoi stessi panni, che tu al limite hai alle spalle, è più difficile da identificare. Lei dice che i padrini hanno capito che bisogna selezionare una generazione che legalizza i capitali accumulati e controlli il territorio limitando la violenza. Siamo lì, siamo arrivati lì davvero? No? Siamo arrivati assolutamente lì, basta vedere quanto sono presenti al nord nelle attività e negli investimenti legali. E quindi si sono convinti che sparare conviene meno? Si sono convinti che sparare conviene meno perché sparare attira troppo l'attenzione. Poi spesso se tu porti solo i soldi non viene neanche confuso come se fossi, certo, un camorrista. Infatti, c'è un colletto bianco. Ma la mafia i soldi oggi li fa più che la testa, quindi che coi muscoli. Li fa soprattutto con la testa, ma sapendo di poter utilizzare i muscoli. Perché quello è minaccia presente. Ma più al nord o al sud? Ma guardi, io credo al nord e al sud, però qui c'è un meccanismo che è interessante riferire, cioè qui c'è un flusso di denaro al contrario, mentre le tasse scendono al nord e al sud, spesso i soldi salgono dal sud verso il nord per i reinvestimenti, perché le mafie sono attività economiche, non investono nei posti depressi. Ma quando ha deciso di fare il magistrato, dottor Cantone? Ma io ho deciso dopo, quando mi sono laureato non avevo deciso di fare il magistrato. Ma perché? Aveva una passione? Che cosa l'ha mosso? No, guardi, sono state anche una serie di scelte contingenti. Io avrei voluto fare l'avvocato, poi mi sono reso conto che non era quello il mio lavoro. No. E in una terra come la mia è evidente che, diciamo, preferiva giudicare che essere giudicato. Io non ho mai fatto il giudice, ho sempre fatto il pubblico ministero, perché credo che giudice è una cosa, è un lavoro molto molto difficile. Da separare le carriere o no? Io sono contrario alla separazione delle carriere, penso che sia giusto che ci sia una distinzione netta, ma la separazione finirebbe per avere effetti opposti, ma questo richiederebbe molto più tempo. È un discorso lungo questo. Ma fino ad oggi qual è l'errore più grande che ha fatto nel suo mestiere di cui si pente, se c'è? Ma io ne ho fatti tanti di errori. Uno non me lo dice? No, non ce n'è uno in particolare. No. Credo di aver fatti tantissimi errori, in cui spesso mi sono riconosciuto la buona fede, ma ne ho fatti veramente tanti. Senta, ma vivere sotto scorta, come capita a lei, da tanti anni, è più la paura che toglie o i problemi che dà? I problemi che dà. Sì. Però io su questo devo dire non sarebbe giusto lamentarsi, cioè lo Stato mi mette a disposizione un apparato, io non posso che ringraziarlo ogni minuto. E come si rilassa? Va al cinema, legge libri, fa... Ma che guardi, fa? Io è talmente tempo che ormai ho fatto l'abitudine, cioè riesco a trovare i miei spazi, io poi faccio pochissima vita mondana, esco pochissimo, tutto sommato... Gioca ancora a pallone? No. No, quando ha smesso? So che ha giocato ma quasi seriamente. No. Io sono sempre stato molto scarso. Mi facevano giocare a calcio perché portavo il pallone. Ah sì, di quelli lei. Senta, ma il fatto di essere, di avere la scorta, di essere protetto, l'ha mai vissuto anche un po' come uno status symbol? Ma le confesso che all'inizio un po' questo effetto c'è stato, c'è però stato. Alla lunga le assicuro che non sono è una più... cosa... Ma cos'è la cosa più pesante di questa vita sotto scorta? Secondo me la cosa più pesante sono le limitazioni alla propria privacy, quello di dover fare tutto in gran parte è tutto pubblico. E poi i coinvolgimenti... lei che è per la trasparenza di tutto, si è fregato da solo. Sì, però voglio dire, ci sono delle cose che per esempio riguardano la famiglia che non certo. è giusto. Cioè io mi sono chiesto se a volte delle cose che hanno riguardato in passato i miei figli, mia moglie erano giusto. E i suoi figli soffrono questo? No? Lo sentono? Mi auguro di no. Io ho provato a rendere... Quanti anni hanno? Mia figlia ormai ha 20 anni, mio figlio 17. Per cui, però diciamo, il periodo più caldo per loro è stato molto difficile. E mi certo. auguro che non abbia lasciato tracce. Senta, le faccio un'ultima domanda, dottor Cantone. Ma se ne parla, a proposito o a sproposito, ma se glielo chiedessero, lei accetterebbe di fare il Presidente della Repubblica? Non me lo chiederanno. No, però se glielo chiedessero? Ma guardi, ma come si fa a rispondere a una cosa non del si genere? Può, una domanda stupida, grazie. No, non è capito. Una domanda stupida, è una domanda a cui non si può dare risposta. Grazie, auguri, grazie. Mix 24. Allora, Mario, il titolo dell'intervista qual è? Tocco ferro. E tu, Pietrangelo? La complicata reputazione delle istituzioni. Un eufemismo per dire tanti guai, eh? Cazzone. Stringimi forte, abbracciami, prima che si alzi il vento. Stringimi forte, abbracciami, prima che scada il tempo. Tienimi stretto ancora alla faccia di questo tempo che ci vuol portare via e che ci insegue con il suo cucù. Allora, stringimi forte. E allora stavolta non ho preso la metropolitana. Ah, si capisce. Ero in macchina e questa è la canzone che ad ascoltarla ti costringe a restare, anche se si è arrivati. È la canzone perfetta per fare tutta una malattia di sentimenti. E non volendo essere blasfemi, io suggerirei, ne vorrei fare una malattia per tutti i nostri ascoltatori, affinché nelle serate che precedono il Natale, imparandola a memoria, possa diventare coro per accompagnare il bicchiere della staffa. E quindi stretti, abbracciati, prima che s'alzi il vento, stretti, abbracciati, prima che scada il tempo, una grandissima canzone di Giorgio Conte, Stringimi forte. In più. Stringimi forte, abbracciami, stringimi ancora tu. Vabbè, Mario, allora le tue bolle oggi dove tutte ci portano? Saranno tutte molto, molto, molto classiche, vedrete. Pavarotti, Leoncavallo, i pagliacci. E perché i pagliacci? Beh, parliamo di Europa. Dovrò parlare di Europarlamento. Allora, secondo me è davvero interessante il comportamento del Parlamento europeo. Perché? Allora, votano una mozione che non ha alcun valore legale, nessun obbligo e così via, ma è significativa dal punto di vista politico, per dire che Google deve dividersi in due, l'avevamo detto ieri. Motore di ricerca e servizi commerciali da una parte, va bene. Poi però, quando devono censurare il comportamento del presidente della Commissione Juncker, che da premier del Lussemburgo permetteva alle multinazionali di andare in Lussemburgo e di fatto delocalizzare le proprie tasse, non votano la mozione, o meglio, spariscono e Juncker resta al suo posto. Allora, risultato: il paradiso fiscale lussemburghese resta. Juncker resta. E poi non lamentatevi se Google e gli altri titani della rete e le multinazionali vanno a delocalizzare il fisco da un'altra parte. Sono degli ipocriti enormi, enormi. Vero. Che non risolvono questa cosa, vero, non sono vero, credibili. Sacrosanto. Wagner, l'olandese volante. Ti piace Buttafuoco? Approvi? Approvo. Questa è l'ouverture, è una roba spessa, seria. E perché qua? E perché? Sento che è vietato ascoltare Wagner. No, sì, ti ricordi quando c'era il Mi Papa, viene voglia di invadere la Polonia, forse? No, perché quando c'era Ratzinger che amava Wagner, però per non rovinarlo dicevano che ascoltasse Mozart. Mozart, sì, no, che è un po' più piritollo. Piritollissimo come... Mozart, grande, ma insomma. Comunque, io non invado la Polonia, mentre l'oro dell'Olanda è in volo o in navigazione, vedremo, dagli Stati Uniti in patria. Sapete, 122 tonnellate d'oro lasceranno New York alla volta di Amsterdam, valore 5 miliardi di dollari. E insomma, la banca centrale olandese ha dislocato le sue riserve auree in maniera diversa. Avremo il 31% ad Amsterdam, il 31% a New York, il 20% a Ottawa in Canada e il 18% a Londra. Secondo la banca centrale olandese, tutto questo serve a ridare fiducia al cittadino olandese. Quindi mi raccomando, l'oro della patria è sempre importante, come vedete. Salamini! Salamini dell'urbe! L'urbe ai salamini! Allora, che cosa è successo? Roma affonda in un default pagato da tutta Italia. Roma non si salva, sebbene... Ignobile plebaglia! Così rincompensate i sacrifici fatti per voi? Ritiratevi, dimostratevi uomini, e domani Roma rinascerà più bella e più superba che pria. Bravo! Grazie. Bene, bravo, grazie. Bis, più bella e più superba che prima. 4 miliardi di aiuti in 5 anni, segnala Federico Fubini, non sono stati sufficienti per iniziare a bruciare meno denaro pubblico. Bene, bravo, bis. Ci sono, grazie. Prego. Ci sono infatti meno corse di autobus. Bene. Bravo, bis. La spazzatura è il blasone della patria di Ermonnezza e del Cozzaro Nero. Bene. Bravo. Grazie. Bis. Più ancor più di quanto possa essere per la l'Ulpa Capitolina. Allora, c'è una questione molto delicata, perché tutta sta questione di far di conti inizia esattamente il 4 ottobre 2013, si chiama verifica amministrativo contabile e non c'era il predecessore dell'attuale sindaco, cominciamo già con gli eufemismi, ma c'era appunto Ignazio Marino. Allora, la questione è questa. Comincia, bene. Bravo. Bis. Grazie. Gli italiani pagano 580 milioni di euro per salvare Roma. Poi gliene hanno dati 885 milioni per consentire il funzionamento dell'amministrazione. La questione è semplice. Già fece danni Alemanno. Marino ha fatto perfino peggio. Ma nel frattempo che la gente protesta contro Marino, fa capolino Alemanno. E quindi quelli vedono Alemanno e un po' così preoccupano. Dice, come va a finire? Però lì la questione politica, tanto è vero che Alemanno adesso si è messo accanto a Fitto nella operazione di rinnovare il centrodestra. E quando Fitto ha visto Alemanno, ha cantato così. Forge, ma rifugge perché sta una foggia. Fugge da Forge, no per Forge, ma rifugge perché sta una foggia. Perché tutto questo alemanno è pugliese. Lo so. E fugge da Forge. Fugge da Forge. Mix 24. Canzoniere. Dimmi che esisti, non chiedo altro, il resto al cuore io lo domando. Sete ingannata da ogni coppa, senza il sapore della tua bocca. Riposo illuso in ogni sonno, senza il ristoro del tuo corpo. 800 24 00 24, il numero verde, 349 238 6666. L'SMS è finita la settimana, è venerdì, è il momento della posta del cuore. Scriveteci a mix24@radio24.it. Sposata da quasi 20 anni con un uomo che amo, ma il sesso è diventato tiepido e molto, molto saltuario. Circa 6 mesi fa però ho conosciuto un altro uomo e dopo molte resistenze ho ceduto alle sue avance. Con lui ho riscoperto la passione e la voglia. Infatti non riesco a smettere di vederlo. Però come persona non mi piace, anzi lo trovo proprio antipatico, arrogante e irritante. Non potrei mai avere una vera relazione con lui e nemmeno la voglio. Dall'altra parte però ho un marito su cui posso contare, con cui riesco ancora a ridere, ma nessuna passione fisica. Insomma, sesso senza amore o amore senza sesso? E io che cantavo la canzone di Venditti, mi sembra impossibile. Come faccio? Intanto ricordiamola questa canzone. E non c'è sesso e non c'è amore, né tenerezza nel tuo cuore. Capita anche. Allora Pietrangelo, ma in questi casi cosa si fa? Guarda, io dico guarda perché siamo nella radiovisione. Ascolta. Ascolta. Una collega del dottor Cantone, una volta incontrando dei coniugi che erano sposati da più di 20 anni, disse loro spontaneamente: ma vi salutate ancora? Detto ciò, bisogna fare sempre una doverosa distinzione tra ciò che è il matrimonio e ciò che è l'amore, direbbero i romantici. Bisogna fare una distinzione ulteriore tra ciò che è il matrimonio e ciò che è la lussuria, in questo caso. Ma se la signora, io non vorrei certo offendere la signora che ci scrive, se la signora in questione vive questa sua passione, io credo che lei abbia preteso almeno le 3 condizioni fondamentali, ovvero la riservatezza, la salute e l'igiene. Dopodiché, cosa si può aggiungere? Una massima profonda che attingo dalla sapienza popolare, che dietro e dentro ogni gatto morta vive, si nasconde una zoccola viva. La stavo aspettando, infatti. Giulia, perché si chiama Giulia chi dai, ci ha scritto. Giulia, però, soffrendo mi sembra che ti sei apparecchiata bene la tua vita. Primo, secondo e anche il dessert. Innanzitutto, dai, 20 anni di matrimonio per me sono un grande successo. Vabbè. E se poi hai riscoperto la passione altrove, io no, francamente non ne starei a fare un dramma. Comunque, non credo che una volta scoperta la passione possa essere spenta a comando. E direi che a questo punto tanto vale viverla. Chissà, magari un po' di quel fuoco antipatico, arrogante, irritante non finisca nella brace sopita del tuo matrimonio. Mario, ancora una bolla. Sì, sempre sul classico. Guerre Stellari, la grande saga del cinema. Allora, il settimo film ancora non c'è, ma la Disney anticipa un trailer nei cinema americani e tra qualche settimana sarà anche in tutto il mondo. E in sala, questa è la cosa fantastica di Star Wars con i suoi fan, ci sono già le file, da oggi ci saranno le file per andare a vedere solo e soltanto il trailer, non il film. Quindi 30 sale nel Nord America saranno prese d'assalto per questa cosa. C'è grande attesa, vedremo come sarà questo film per gli appassionati di fantascienza come me e non solo. È un appuntamento imperdibile e dunque, caro Minoli, come si dice in Star Wars, che la forza sia con te. Oggi, per la storia di Mix 24 raccontata insieme a Marina Milone, sono gli anni di piombo e l'assassinio di un grande giornalista ucciso dalle Brigate Rosse a Torino il 29 novembre del 77. L'aspetto più preoccupante della crisi dell'ordine pubblico in Italia consiste nella molteplicità e nell'estensione dei gruppi che formano il partito armato. Questi gruppi non vivono in clandestinità. Li conosce la polizia, li conoscono i cittadini. Spesso hanno sedi ufficiali, tengono assemblee, pubblicano giornali. Fino a quando svolgono un'attività politica, per quanto di esasperato estremismo, esercitano un diritto garantito dalla legge democratica. Ma quando organizzano e favoriscono azioni violente, provocano o compiono azioni delittuose, quei gruppi escono dalla legalità e non possono chiedere allo Stato né tolleranza né impunità. Le sedi politiche in questo caso diventano covi e vanno chiuse. I militanti trasformati in squadristi devono essere perseguiti come autori di reato. Sono parole di Carlo Casalegno la settimana prima di essere ucciso. Un'ultima notizia, Luca da Milano per il canzoniere. Pronto? Pronto Luca? Sì, sì, buongiorno. Gianni. Dica. Sì, Clemente Rebora. Giusto, giusto, Feltrinelli. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Che fa a Milano? Lavoro da casa. Oggi è grigio, per cui... Ah, va bene. Allora, buon lavoro. Altrettanto. Grazie. Salute pubblicità. Grazie. Certo, ciao.